Radio 24 Reportage. Fiat, una fabbrica in piazza, di Paolo Piacenza. La mattina alle 10 Piazza San Carlo non è molto animata. Fino alle 10.30 c'è il blocco del traffico. Poca gente, i negozi hanno appena aperto. L'eco del violino di uno dei suonatori ambulanti si mescola al suono della fisarmonica che riempie i portici. Torino è la sua fabbrica, perché nonostante tutto, nonostante i numeri dicano che ormai la prima azienda locale per numero di dipendenti è il comune, la Fiat resta il simbolo dell'identità industriale della città. E così anche nei caffè del Salotto Buono del capoluogo piemontese si parla, magari a bassa voce e senza troppa enfasi, del referendum sull'accordo di Mirafiori. Al caffè Torino incontro Elisa, che lavora in banca. La distraggo dal suo caffè per chiederle cosa pensa del voto. Credo che i contenuti dell'accordo siano corretti. Le modalità della richiesta referendaria un pochettino meno. Cioè ha un po' il sapore del ricatto? No, non del ricatto. Cioè per me ha il sapore di potete scegliere con quale corda impiccarvi, no? E se fosse al posto di un operaio che cosa farebbe? Voterebbe sì o no? Voterei sì, ma non per ricatto. Voterei sì perché mi rendo conto che la situazione è questa. Cioè anch'io nel mio lavoro ho dovuto fare delle scelte e penso che anche il sistema bancario a breve avrà da fare delle scelte. E secondo lei Torino come sta reagendo a queste situazioni? Chi sta bene è distaccato, chi sta male si fa infervorare da questa dialettica creata forse un po' apposta. Però l'azienda resta importante. Per la città sicuramente, non solo per la città secondo me, cioè proprio è un segno dell'Italia. Ad aspettare al bancone c'è anche Paolo che lavora alle poste. La Fiat comunque è un po' la storia della città, anche se negli ultimi anni molte cose sono cambiate. Perdere ancora quest'ultimo pezzo veramente sarebbe una coltellata, per cui spero che comunque la cosa si risolva positivamente, perché è pur vero che certi diritti devono comunque essere mantenuti, visto che diciamo siamo un paese civile, non vogliamo essere cinesi, tra virgolette, però purtroppo bisogna anche guardare al momento non è facile, oggi perdere altri posti di lavoro sarebbe una mazzata veramente grossa, anche per la città. Lei voterebbe sì? Guardi, sarei sul ni fino all'ultimo secondo e voterei lì. Più sì che no, sicuramente, più sì che no. Ma anche nel centro di Torino c'è qualcuno che voterebbe no. Francesca, insegnante, accetta di interrompere la sua colazione per dirmi che a lei l'accordo proprio non piace. Ma voterei no, insomma, secondo me la votazione non doveva proprio esserci in questo senso qui, sono stati messi un po' alle strette. Voterei no perché comunque è una situazione che renderà difficile la vita degli operai proprio, secondo me. Poco più in là c'è il Caffè San Carlo, altro baluardo della torinesità. Una signora di mezz'età sorseggia il suo macchiato e non vuol sentir parlare di Fiat. Ci ha lavorato tanti anni, mi dice. Poi però cede solo per una battuta. Per me Marchionne ha ragione, punto. Non dico altro. Chi volentieri dice come la pensa è un elegante dirigente d'azienda. Bisogna votare purtroppo per il sì, anche se poi subito dopo ritengo che bisogna valutare Marchionne per quello che ha fatto effettivamente. Cioè la sua quota di automobili vendute in Italia, che non è aumentata, anzi è diminuita, e che cosa farà per la produzione di automobili in più in Italia. Oggi noi sappiamo solo che è un bravo finanziere che ha sostituito i contributi italiani e i contributi americani e niente di più. Quindi io a questo punto ritengo che oggi non ci sia niente da fare e che gli operai debbano votare sì, ma subito dopo bisogna aprire un discorso con questo signore che non sono sicuro stia facendo il bene degli italiani. Chi lo dovrebbe aprire questo discorso? Naturalmente il governo, come in tutti gli altri stati, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra. Salgo in auto e parto alla volta di Corso Re Umberto. Qui, in una bella casa vecchio stile, piena di ricordi e di luce, abita un signore che è divenuto a un certo punto il simbolo nazional popolare della torinesità, Bruno Gambarotta. Tipografo, scrittore, giornalista, funzionario RAI, attore, cabarettista, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Anche ora che ha 74 anni è attivissimo. Un torinese sobriamente vulcanico, si direbbe, che sulla vicenda Fiat tra memorie e falsi miti preferirebbe meno enfasi. La mia sensazione in effetti è che sì, hanno come dire, è stata drammatizzata la vertenza. È curioso che se uno chiede, fa un test, no? Dice a una persona, a un italiano, se qual è secondo te il maggiore erogatore di stipendi a Torino, e in automatico la risposta è la Fiat. E non è più così, cioè la centralità Fiat non c'è più. E non so, viene vissuto come un po' come un mito, secondo me, questa cosa. Poi, io ho collaborato alla mostra dei 100 anni della Fiat. Ero stato invitato a partecipare al gruppo che la ideava e è stata una bellissima esperienza. L'incarico che io avevo assieme a Olmo, all'urbanista, era di raccontare l'interazione città, come la Fiat aveva influenzato Torino e come Torino aveva influenzato la Fiat, ma sul piano dei costumi, della vita quotidiana, quindi tutti i rituali, la macchina lavata alla fontana la domenica mattina, la macchina del dipendente, la partenza dei dipendenti, quando vanno in ferie con la macchina stracarica di roba, partono, dopo aver fatto 8 ore di lavoro ne fanno altre 20 di auto, perché bisogna andare al paese con la macchina per far vedere che anche noi ce l'abbiamo. Tutta questa cosa qui è finita. Certo, dice Gambarotta, un po' di incertezza rimane, soprattutto per una città che fin da quando perse il ruolo di capitale continua a temere di veder sottratti i suoi gioielli. La cosa che fa impressione è questa fusione con la Chrysler, e questo spostamento del baricentro, questa sensazione che in fondo le decisioni non saranno più, come dire, torinocentriche, ecco, questa sensazione che Torino sta perdendo veramente uno dei insomma, il peso, il baricentro forte, no? C'è questa sensazione, sì, che poi galleggeremo e non si saprebbe bene. Io ho fatto anche una volta una specie di una cosa che è stata presa non tanto bene, perché era un gioco che, avendo delle rubriche che tentano di essere un po' di alleggerimento sulla stampa, ho fatto l'ipotesi che un giorno a Mirafiori ci sarà una catena di montaggio finta dove gli operai reciteranno la parte di operai per far dire alle scolaresche come si fabbricavano le automobili. Esiste già nelle miniere, le miniere di talcografite, per esempio, l'hanno chiuse perché sono pericolose, perché non rendono, perché sono esaurite. Però cosa hanno tenuto? Le hanno tenute in piedi, e ci sono dei minatori che recitano la parte dei minatori in favore di scolaresche che vengono portate in visita per vedere cos'era la vita in miniera una volta. Cioè che noi rischi di diventare un'immensa Disneyland, dove le cose vere però si fanno da un'altra parte, questo rischio un po' c'è. Tuttavia a Mirafiori si sta giocando una svolta necessaria, brusca ma necessaria. È un elettroshock, secondo me. No, io, secondo me non sarà un elettroshock. Sarà veramente un'altra svolta. C'è un prima e un dopo. Non sarà più come prima. Non sarà più come prima. C'è veramente questa percezione c'è, secondo me. Non sarà più come prima, però è paradossale che il destino sia in mano a persone anziane, insomma, più ultra quarantenni, che fanno gli operai da 20 anni, cioè tutta una situazione strana, curiosa, insomma. Poi Torino ha più del 25% ha più di 65 anni, quindi è una città di vecchi, se uno può permettersi di guardare le cose con un certo distacco, perché ormai quello che doveva fare l'ha fatto. Questa cosa è, e anche quella, è, anche di questo bisogna tener conto. Comunque secondo me è un passaggio epocale. Bruno Gambarotta, sì. Se fosse al posto di un operaio cosa farebbe? Voterebbe sì o voterebbe no? Ah, io voterei sì, senza esitazione, voterei sì. Riprendo il cammino e lascio il centro per Borgo San Paolo, storico quartiere operaio, oggi fotografa bene il mix cittadino. Tanti dialetti, molti anziani, un buon numero di immigrati, idee politiche diverse. Il monopolio del PC qui è finito all'inizio degli anni 90. Il mercato di Corso Racconigi è uno dei più vivaci in una città che ha il record europeo di aree di vendita all'aperto. Al mio arrivo mi imbatto in una discussione tra alcuni pensionati. Si parla di Fiat e il microfono di Radio 24 non calma certo gli animi. Cosa si dice? Si dice che io sono contrario. Se fosse stato un altro governo, prendevo quel signore lì di Marchionne, lo portava via, vattene in Canada, qua in Italia, non c'è posto per te. Un altro governo, non un governo che abbiamo qua. L'altro governo ha fatto delle cose eccezionali. Eccezionali. Le ha fatte eccezionali. Risponde alla domanda, sì o no? Ma ti rispondo sì. Ma no, devi capire, solo perché l'altro l'ha fatto, questo è obbligatorio, è autorizzato a farlo pure questo. Ma perché qua non te la sei presa prima con lui e adesso te la pigli solo con questo? Non sa che significa lavora. Perché 15 ore al giorno io li ho fatti, loro non sanno neanche perché cosa significa. Lei voterebbe sì, da quello che capisco. Certo, per due sostanziali motivi. Il primo, è vero che ci sono delle limitazioni sul contratto che hanno fatto, però questa gente che dice no, secondo il mio punto di vista, è uno solo, dice no per due motivi. Uno, perché non ha mai fatto un cazzo e continua a non voler fare un cazzo, vuole lo stipendio come lo faceva prima e non vuole accettare tutte quelle persone che hanno veramente necessità di mangiare, vanno a votarlo. E invece voi che ne pensate? Lei cosa ne pensa di questa faccenda dell'accordo a Mirafiori? Sta tornando indietro, di nuovo di 50 anni. Certo, bello, bisogna guardare quello. Allora, Marchionne quando finisce di lavorare ieri, non l'ho fatto io il conto, l'ha detto per televisione, si porterà a casa qualcosa come 400 milioni di euro. Ce le direbbero, signor Marchionne, questi soldi qui, la paga di 20.000 operai, questi soldi qui non glieli diamo più. Cosa direbbe, signor Marchionne? Perché il paragone è quello, agli operai le stanno dicendo questo, non glielo diamo più. Tra i banchi c'è lo stesso equilibrio, chi dice sì, chi dice no. Votare no, perché è una vergogna. Perché sono ricattati, non votano liberamente. Poi non solo, insomma, in un momento di crisi ci sono licenziamenti in ballo e adesso... La crisi la fanno pagare chi lavora. E chi lavora, più o meno... Perché prima c'è il lavoro, perché se chiude la fabbrica, addio diritti, con chi protesti? Con chi protesti? Con quelli che non lavorano. Io ho lavorato 25 anni in Fiat. Io ne ho lavorato 18. Conviene aggiustarsi. Penso che Marchionne stia facendo un po' quello che voglia. Gli operai fanno bene a protestare. Anche così Torino sta alla finestra e aspetta che gli operai decidano sul futuro del loro lavoro e forse della fabbrica. E anche un po' sul futuro di Torino. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.